Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata cari gastronauti, cari radioascoltatori. Bene, oggi facciamo una puntata che un po' differisce dalle solite, perché andiamo oltre confine, quindi l'Italia l'abbiamo già viaggiata in lungo e in largo, certo. Rimangono ancora moltissimi territori da visitare, ma visto che siamo nell'epoca delle vacanze, siamo nel momento in cui la gente si sposta, diamo anche qualche suggerimento che va al di là dei confini. Sebbene i confini di cui parleremo oggi sono veramente, diciamo, sono così stretti che non sono neppure confini, sono confini sicuramente politici, ma non geografici, soprattutto perché negli ultimi anni ci sono moltissimi produttori di vino, così capirete dove vi porto, che producono vino magari con vitigni che hanno al di là e al di qua dell'Italia. Bene, oggi parliamo della Slovenia. Facciamo un viaggio in Slovenia, andiamo a scoprire vini, andiamo a scoprire prodotti, andiamo a scoprire anche dei personaggi e magari anche dei metodi di cottura che sono alquanto inconsueti. Bene, cominciamo questo viaggio con una viaggiatrice di cibo e di vino. Buongiorno a Raffaella Prandi. Salve, ciao Davide, come stai? Bene? Bene, grazie. Giornalista del Gambero Rosso che ha fatto un bellissimo itinerario in Slovenia, quindi diciamo anche lei ha potuto così scoprire delle cose interessanti, cominciare dai vini e dai prodotti. Ma voglio cominciare, Raffaella, che tu mi dia le impressioni. È un territorio che sta così esplodendo sui prodotti o ci vorrà ancora molto tempo? Guarda, i segnali, almeno l'impressione che ho avuto, è una terra piena di energia. Tieni conto che, come dire, sembra che sia poco più grande del Veneto e ha la metà dei suoi abitanti. E quindi è una terra vergine e in qualche misura lo sono anche questa nuova generazione di produttori che produttori sia di vino ma anche di specialità alimentari. Prima di parlare del vino, mi ha colpito un prodotto assaggiato che è un olio fatto da un oleificio aziendale, i Kochbeck, e lavorano diciamo a freddo tutta una serie di semi. L'olio di zucca che fanno loro e anche quello di girasole è un olio gourmet, una cosa raffinatissima, molto sofisticata. Ecco, ci sono pieno di queste piccole cose così. Insomma, l'impressione è che si siano messi, che siano un paese in corsa, con grosse potenzialità. Ecco, voglio tornare un secondo sull'olio di zucca che anch'io ho assaggiato e l'ho trovato veramente molto, ma molto interessante. Ecco, volevo chiederti, ma quale accostamento si può fare con questo olio? Ma ne parlavo con Andrea Bandiera e lui diceva che è un bravissimo gelataio di Bologna e lui suggeriva, cioè, potrebbe venire un gelato spettacolare. L'unico problema è che, essendo lavorati a freddo, è un olio ad alto rischio di ossidazione, quindi diciamo, questa era l'unica controindicazione, ma insomma effettivamente un gelato di zucca accostamento, penso ai tortelli di zucca classici, no? Cioè nel pieno dei tortelli che cosa c'è? C'è il parmigiano, ci sono gli amaretti. Ecco, quindi un accostamento di questo genere. Ecco, rimani con noi perché dall'altro lato del telefono abbiamo una persona che tu conosci benissimo, un grande cuoco, quello che sta trascinando la gastronomia slovena, la sta presentando in giro per il mondo. Abbiamo con noi Tomas Kavčić. Buongiorno Tomas. Buongiorno Davide, buongiorno Raffaella. Buongiorno, allora Tomas e la trattoria Gostilina Priloizetu di Vipacco, se ho detto giusto Tomas, è così? Sì, giusto. Ecco, allora tu hai sentito, abbiamo parlato di olio di zucca, è comune nella cucina vostra, slovena? Ma guardate, olio di zucca è molto tipico, soprattutto nel parte di Slovenia, vicino con confine con Austria e con Ungheria. Io sono al parte più vicina, non so, Trieste, Gorizia, e da noi è più tipico olio di oliva, abbiamo anche buonissimi oli di oliva, ma olio di zucca è sicuro uno dei prodotti tipici sloveni. E come si usa? Si usa più o meno in zona di quella zona di Maribor, si usa come usiamo noi olio di oliva, si usa anche per condire la verdura, si usa per aggiungere quando si cucina. L'unica cosa, come detta già prima Raffaella, è vero che è un olio proprio naturale che ha problemi con ossidazione, l'unica cosa, per quello è meglio usarlo all'ultimo, al freddo, no? Per condire, così non è proprio adatto per cucinare tanto tempo. Bene, Thomas, rimani con noi, io torno a Raffaella Prandi perché volevo sapere se c'è qualche piatto particolare che l'ha colpita. Sì, io mi ricordo un piatto straordinario, assaggiato. Beh, a parte la cucina di Thomas, già il suo benvenuto agli ospiti fatto con il pane di mais e il latticello velo yogurt, no? È una cosa che ti apre il cuore, perché Thomas riprende questa tradizione del slovena che di benvenuto all'ospite con tutta una serie di assaggi. Mi ricordo anche questa sua interpretazione della, mi pare che si chiama della Lubianca, che è questa cotoletta, che era il piatto tipico, diciamo, di quello che era considerato il turismo della benzina. Spesso noi italiani si passava il confine per andare a fare benzina, che costava meno, e con l'occasione si mangiava, non so, si andava nelle gostirne, nelle trattorie per mangiare la cotoletta, no? Che veniva servita con patatine fritte e la salsa rossa, il ketchup. Allora, Thomas ha fatto una reinterpretazione molto divertente di questa cotoletta, ma insomma poi va bene delle cose che fa lui con la piastra, la famosa piastra di sale, una piastra, e poi ce la faremo raccontare, del sale delle saline di Pirano, che viene aromatizzato con spezie ed erbe, e è la base su cui vengono poi cotti pesci e carni. Il branzino cotto su questa piastra di sale mantiene tutta la sua fragranza e l'umidità, ed è una cosa veramente eccezionale. Quindi insomma, ancora complimenti alla cucina di Thomas, perché è raffinatissima. Grazie a Raffaella Prandi, inviata del Gambero Rosso. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, siamo in viaggio in Slovenia e abbiamo con noi quello che rappresenta un po' la gastronomia slovena, che ha fatto conoscere un po' a moltissimi appassionati italiani la sua cucina. Bene, Tomáš, io volevo chiederti, innanzitutto abbiamo sentito prima appunto questo benvenuto che viene dato nel tuo ristorante, che anche a me mi ha veramente colpito, di spezzare il pane e di dare il latte acido come benvenuto. È una tradizione che tu appunto dici che è nelle famiglie, quindi un qualcosa, io devo dire, di molto romantico. Forse questo romanticismo in molte altre parti d'Italia si è un po' perduto. Ma volevo chiedere, quali sono secondo te i canoni principali della cucina vera slovena, quella che tu fai, che sicuramente hai anche così portato in giro per il mondo e anche fatto tuo, perché tu hai messo molta creatività. Ad esempio, poi parleremo del sale di Pirano. Ecco, dimmi se c'è qualcosa in particolare, due piatti che rappresentano appunto lo spirito sloveno. Ma sicuro la cucina slovena non dimentica tradizione, no? E poi adesso ci siamo un po' di chef, diciamo giovani chef, che questa tradizione lo stiamo un po' servendo, non so, con servendo un po' più, diciamo, moderno, ma senza mai dimenticare tradizione. I piatti tipici, se parliamo di tradizione, soprattutto della mia zona, così chiamate cucina povera, che grazie a Dio adesso questa cucina povera adesso è diventata ricca, molto ricca, importante, molto ricca, per quello io mai non posso dimenticare, quando parlo di cucina slovena mai non posso dimenticare crauti, fagioli, patate, le cose basi, e poi da questi prodotti, da queste materie prime molto buone, molto naturali, facciamo poi nuovi piatti, diciamo, no? Come prima signora Raffaella ha detto di questa, ho presentato questa tartare con un ricordo di Lubianska, che è una cordon bleu, che è sempre stata molto, molto presente in nostre trattorie, nostri costini. Senti, volevo chiederti questo, cioè abbiamo detto appunto tradizione, tu però hai portato molta innovazione in questa cucina slovena, utilizzando le materie prime, soprattutto, e ora mi rifaccio al sale di Pirano, mi faccio a questa salina importante che anch'io ho visitato, molto bella, molto, molto interessante, ma soprattutto perché tu hai una parte della salina dove tu coltivi il tuo sale. Sì, io 5 anni fa sono andato a visitare queste saline, non mi vergogno a dire che fino a 5-6 anni fa anche per me il sale era 1 chilo di sale praticamente in negozio, no? Poi mi sono un po' più approfondito nel mondo di sale e anche nella storia del passato di sale, e quando sono andato a visitare queste saline, stupende saline del Pirano, ho incontrato un signore che lavora là, saliniero, che da settima generazione in saline. Con lui ho trascorso tutto il pomeriggio, e quando tornavo a casa ho detto devo fare un piatto, fare praticamente un omaggio al sale e al saline di Pirano. Ed è lì poi è nata questa idea di piastra di sale, dove poi io cucino sopra, soprattutto il pesce, ma si può cucinare anche il carne. Con la quale sei diventato famoso, diciamolo anche, perché ormai molti, grazie. Molti hanno così adottato questa tua tecnica. Ecco, volevo anche chiederti questo, cioè tu sei a pochi chilometri dal confine italiano e molti italiani vengono a mangiare da te. Quali sono i piatti che secondo te così vedi che scelgono molto di più, diciamo, gli italiani nella tua tavola? Ma soprattutto quello che penso che anche la cosa più importante adesso, adesso sono tanti piatti, no? che piacciono, grazie a Dio, ma io soprattutto vedo che la materia prima, il miglior materia prima, non so, sia pesce sia carne, portata al tavolo con una cura di non rovinare il sapore originale, penso che questa è la formula vincente per italiani, per sloveni, per tutti i miei clienti, no? Per questo, grazie a Dio, siamo vicino anche al mare e abbiamo ancora buonissimi prodotti, come, non so, scampi crudi, branzini, ancora branzino dal mare. Abbiamo più o meno, ecco, queste come ho detto già prima, le materie prime. Le materie prime, certo. Sì. Ma avete soprattutto il pane, che avete mantenuto questa integrità di lavorazione e di lievitazione? Sicuro, le farine selvaggina fanno anche una parte molto importante del menù nel mio ristorante. Certo. Noi lavoriamo ancora con farine del mulini del zona, sicuro il pane è una di cose molto importanti nel nostro ristorante. Ecco, volevo chiederti un'ultima cosa, in Slovenia è possibile mangiare l'orso? Questo ovviamente, come tu sai, anche negli animalisti, chi protegge le specie animali, crea qualche problema. So che voi avete una regolamentazione particolare. Ma guardate, il nostro ufficio di protezione di l'orso è l'ufficio più vecchio che esiste in Europa. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che ancora oggi l'orso è protetto, e come, no? È molto seguito, solo ci sono troppi orsi, no, in Slovenia, e per questo poi questo ufficio lascia un tot all'anno la possibilità di uccidere un certo numero, certo, per selezionare l'orso, no? Perché orso comunque orsi si avvicinano sempre di più anche alle città, e orsi sono anche pericolosi. Bene, io ti ringrazio, grazie a Tomas. Vuoi dire tu esattamente il nome del tuo ristorante e l'indicazione? Perché non è... No, io sono, sono Tomas Kaučić. Il nostro ristorante è a Valle di Vipaco, si chiama Gostilna pri Lojzetu, che vuol dire praticamente trattoria del Luigino. Luigino era mio bisnonno e nonno, io sono di quarta generazione. Località è Demono, Vipava. Bene, a pochi, quanti chilometri dal confine italiano? Sono 23 km, sono diciamo 15 minuti dal confine italiano. Grazie, a presto e buona estate. Buona estate. No, tante grazie di tutto. Bene, continuiamo questo viaggio in Slovenia, perché dovete sapere, cari gastronauti, che la Slovenia sta diventando molto importante dal punto di vista vinicolo. Ha anche dei personaggi molto importanti, e mi spiace che non siamo riusciti a metterci in collegamento con il produttore di un marchio famoso che si chiama Movia, Aleš Kristančić, che è un personaggio mitico, ma poi ne parleremo anche senza la sua presenza, perché vale veramente così, vale la pena di raccontarlo un po' questo personaggio. Ma dicevo che è grande crescita anche perché, come ho detto all'inizio, il confine, avete sentito, è talmente vicino, le vigne sono confinanti, addirittura ci sono dei produttori come Jerman che producono vini che hanno metà vitigni in Italia e metà in Slovenia, ma ce ne sono tantissimi altri. Allora voglio chiedere a un grande esperto di vini, buongiorno Andrea Grignaffini, che è direttore di Spirito Divino, buongiorno Andrea. Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora mi fai, cosa ne pensi dei vini sloveni? Ma guarda, ne penso molto bene, io non, lo dico subito, non sono mai stato in Slovenia, ma conosco ormai da 10 anni i vini sloveni, li bevo ed è come se mi immergessi un po' proprio all'interno del paese, e ogni volta che sento un vino, un vitigno, proprio sento il territorio ed è come se lo vivessi in presa diretta e in prima persona. Quindi li reputo vini veramente molto molto interessanti in tutte le loro sfaccettature e sfumature a seconda delle zone di provenienza. Ma io ti faccio una chiosa su questo, che io le ho visitato abbastanza cantine e ho avuto l'impressione che la loro fortuna, e lo dico, lo ripeto, la loro fortuna è stata di aver attraversato gli anni del comunismo di Tito. Perché questo? Perché li ha isolati e le pratiche agricole in cantina sono rimaste abbastanza rudimentali, per cui oggi sicuramente hanno un vantaggio competitivo. Sembra paradossale quello che sto dicendo, ma veramente, come è successo in altre agricolture, ad esempio l'agricoltura uruguaiana per quanto riguarda la frutticoltura, questa fase di isolamento ha creato così un qualcosa di magico che ora stanno cercando così di proporre. Ma torniamo a Andrea Grignaffini. Andrea, tu hai assaggiato sicuramente dei vini sloveni e ora, cioè, raccontami un po' cosa hai trovato in questi vini. Ma guarda, prima di tutto ti do ragione, chiuso anch'io la tua chiosa, perché effettivamente il fatto di questo isolazionismo ha fatto sì che ormai abbiamo delle radici primordiali, dei grandi archetipi, secondo me, che sono saltati, insomma, in questi ultimi decenni in Italia, ma anche in altri paesi europei. Poi invece veramente c'è questa vitivinicoltura veramente d'antan, e questo con tutti i vantaggi annessi e connessi. Sono vini che hanno, secondo me, le grandi caratteristiche, a parte le tre zone, quella vicino all'Italia, tra quindi il Coglio sloveno, Capodistria, il Carso, e poi quelle zone vicino alla Croazia che danno vini completamente diversi. Quello che si può dire, un po' del denominatore comune, soprattutto dei vini in prossimità nostri, sono che puntano molto sul monovitigno, e l'altra cosa caratteristica è questa grande mineralità, questa grande salinità, questa grande potenza che però si mischia con una grande eleganza e finezza, quindi vini molto molto personali, molto originali. Ecco, io devo dire che una cosa così mi ha lasciato un po' perplesso: i prezzi sono cari, nel senso che non è che sono vini che costano poco, vini cheap, no, hanno dei prezzi, insomma, che è giusto che si allineano a quelli internazionali, però in quel caso li ho trovati abbastanza importanti. Diciamo che i produttori di punta sono, appunto, ho detto Movia, Simčić, Sutor, e poi ne scopriremo anche altri. Ecco, volevo chiederti un fatto particolare: questi vini ovviamente rientrano tra i vini tra virgolette, naturali. E tu sì. pensi che possono avere così un successo anche in Italia? No, secondo me in un certo senso, lo vedo guardando le carte dei ristoranti, vedo che hanno già successo. Ci sono alcuni produttori che sono praticamente alla pace, penso ai casi del Coglio Sloveno, quei nomi che hai fatto tu, e sono veramente vignaioli, secondo me, molto presenti. Non ho mai ragionato sul prezzo, in effetti i prezzi non sono contenuti, ma se vengono venduti vuol dire che gli appassionati hanno un notevole riscontro con gli appassionati. Bene, io ringrazio Andrea Grignaffini, lo ripeto, direttore di Spirito Divino. Ciao Andrea, a presto. Grazie mille a te. A presto. Il gastronauta. Sine qua non, cari gastronauti, siamo ancora in viaggio, attraverso la Slovenia. A proposito, attenti a chi viaggia, perché la polizia è molto, molto rigida, ci sono dei controlli di velocità molto, ma molto severi, quindi fate attenzione, anche se ormai ci sono anche delle strade molto, molto importanti in cui si può anche correre. Guardate il paesaggio di questa terra che è rimasto tale quale. Poco è stato costruito, non ci sono orride costruzioni come si trovano in giro per il mondo e soprattutto anche in qualche parte dell'Italia. Come ho detto prima, è stata la sfortuna di avere la fortuna del comunismo di Tito, che ha bloccato tutto, quindi ha bloccato sicuramente i produttori di vino, ma ha bloccato anche le costruzioni. Speriamo che ci sia un controllo anche per il futuro. Ma noi continuiamo questo viaggio gastronomico e vinicolo. Ebbene, abbiamo con noi ora un cuoco bolognese. Voi mi chiederete, ma come mai sentiamo Mario Ferrara, titolare chef della trattoria Scaccomatto di Bologna? Buongiorno Mario. Buongiorno a tutti. Lo sentiamo perché Mario ha partecipato a un viaggio enogastronomico assieme a una persona che abbiamo anche lui in linea, che è Bruno Damini, poi spiegheremo la motivazione. E io da Mario Ferrara, siccome ha assaggiato, è stato in diversi ristoranti, che tra l'altro vorrei dire che ormai Jeune Restaurateur d'Europe hanno fatto molti affiliati in questa terra, attraverso appunto Tomasz, che è stato il primo ad entrare nella prestigiosa guida. Allora Mario, io vorrei sapere quali sono le tue impressioni della cucina, fuori dai denti, della cucina, perché so che tu sei molto, molto chiaro, fuori dai denti, le tue impressioni sulla cucina che hai assaggiato in questi 4-5 ristoranti sloveni. Beh, devo dire questo, che penso che non si possa fare nessun rapporto con l'Italia. Nel senso che noi siamo veramente ricchissimi di prodotti di altissima qualità. Devo dire che loro ne hanno pochi, ma che pochi che hanno sono buoni. Ecco, quali sono i prodotti che ti sono rimasti così in mente, magari da suggerire anche ai nostri radioascoltatori che vorranno andare in Slovenia? Beh, una cosa un po' molto particolare, difficilissima, penso, da trovare. Poi siamo nell'Europa che noi conosciamo, nel senso, nell'Europa gourmet, tipo la Francia, tipo la Spagna, ma per esempio la calzagione. Di preciso poi l'orso, che loro hanno una selezione naturale, per cui per loro, come dire, il cibo sta anche di tutti i giorni. Certo, ma anche sulle cotture hai trovato qualcosa di così di speciale, oppure secondo te, diciamo la verità, sono rimasti chiusi tanti anni, alcuni ristoranti potrebbero essere ancora, non dico indietro, ma ancora non aver raggiunto i locali, magari altri locali italiani o francesi? Beh, secondo me naturalmente loro possono assolutamente solo crescere, per cui per loro è un vantaggio e ancora tutto da scoprire. Però ho conosciuto un paio di chef veramente molto molto capaci, molto avanti, parlo poi anche tecnicamente soprattutto. E come dire, e per noi chef poi questi viaggi sono veramente molto molto utili, perché il confronto è il sale del nostro mestiere, insomma, ecco. Ecco, il prosciutto diciamo carsico, perché si può chiamare così, come l'hai trovato? Ma buono, l'ho trovato buono. Ripeto, loro non possono, partono già da quei pochi prodotti che hanno di ottima qualità, per cui non possono fare altro che migliorare con le tecniche, ecco. Bene, rimani con noi, continuiamo questo viaggio. Ora abbiamo con noi appunto Bruno Damini. Buongiorno Bruno. Bruno è il, diciamo che è la macchina che muove l'Arena del Sole a Bologna, dove ogni anno inventa un giro per l'Europa e poi porta, diciamo, le materie prime a Bologna, le fa cucinare e incontra anche i produttori e i cuochi, diciamo, dei paesi che va a visitare appunto con un gruppo di cuochi, giornalisti e opinion maker. Ma in particolare ora c'è stato questo incontro con la Slovenia, c'è stata anche una cena a Bologna, vero Bruno? Sì, c'è stata una serata di gola, anni fa le chiamavamo cene di gala, ma ho pensato meglio di trasformarne il nome in questo modo, è meno ampolloso e anche sicuramente più simpatico. Oltretutto la prima parte della serata si sviluppa tutta nel chiostro cinquecentesco dell'Arena del Sole, che è il teatro stabile di Bologna, per cui ci si può permettere di lavorare buona parte dei piatti che vengono proposti dai nostri amici chef, fra i quali Mario stesso, Massimiliano Poggi ad esempio, con il barbecue, quindi avere dei barbecue nel chiostro con le carni che abbiamo avuto a disposizione, in confronto appunto fra ad esempio un maiale di razza autoctona del nord-est della Slovenia e carni nostre come la mora romagnola. Quindi c'è stato un confronto-scontro? È stato un confronto-confronto, assolutamente. Come diceva Mario, è sempre uno scambio fra culture, no? Io non sono di quelli che dicano esiste una cultura enogastronomica dominante. Diverse culture nei vari paesi europei, anche nei paesi più piccoli come la Slovenia, stanno crescendo rapidamente, lo dicevi tu stesso anche prima, e questo nel giro di questi ultimi anni stanno facendo passi da gigante, quindi il nostro non può essere che un confronto è uno scambio fra culture, ecco. Per cui la carne si sposa con le verdure le vogliamo biologiche e a chilometro zero, eccetera, eccetera. Bruno, volevo chiederti cosa ti è rimasto impresso, perché tu sei andato più volte, hai sperimentato, diciamo, la Slovenia. Cosa sono le note importanti che si possono portare a casa dopo un viaggio appunto enogastronomico in questa terra? Oh, se parliamo di prodotti, devo dire, vabbè, voi ne avete già ampiamente parlato, ma ribadisco i vini sono ogni volta una bella riconferma e una bella scoperta. In assoluto scoprire gli spumanti di Istenich, per esempio, che non conoscevo, è stato parecchio interessante, sono spumanti che hanno lunga tenuta nel tempo anche. Stando sui prodotti, forse in assoluto la più bella scoperta è l'olio di semi di zucca tostati di un produttore che si chiama Kosbeck. E devo dire, fra Austria e Germania, questo è decisamente il migliore che io abbia mai assaggiato. Poi, ecco, volevo chiederti un ristorante, dunque abbiamo sentito Thomas, quindi lasciamo fuori Thomas, che ormai è molto noto. Degli altri ristoranti, c'è stato un ristorante che tu consiglieresti a un amico? Sì, assolutamente, ma per tanti motivi, non solo per la location, è un castello duecentesco edificato su un'isola in mezzo a un fiume nella regione della Dolenisca ed è il castello di Otocec. Lì c'è un giovane chef, Robert Gregorčič, che sviluppa una cucina che è davvero sorprendente, tutta con prodotti del territorio, riesce a combinare la selvaggina, se ne parlava prima, ma inserendo delle novità fresche, con dei tempi e metodi di cottura che sono parecchio aggiornati, quindi si vede evidentemente una ricerca anche che parte dalla formazione di questo giovane, ecco, chef. È un viaggio che vale la pena di fare. Diciamo subito che il ristorante Grad nel castello appunto di Otocec è Relais Chateau, quindi sicuramente è un posto molto bello, in un parco molto bello. Faccio io questo, do io in aggiunta queste annotazioni che sono importanti chi dovesse appunto intraprendere questo viaggio o si trovasse in zona, quindi è sicuramente un locale, un ristorante albergo che niente ha da invidiare con i grandi relais chateaux che sono diciamo fuori della Slovenia. Ecco, un'altra cosa volevo chiederti. Oltre a questo ristorante abbiamo visto anche, poi lo chiederò anche a Ferrara, abbiamo visto anche molti, diciamo, chef che appartengono ormai ai giovani ristoratori d'Europa, Volevo chiederti, hai visto un livello che sta cominciando ad alzarsi? Perché Tomas è un'eccezione, anche questo albergo è un'eccezione. Ecco, l'altro livello, come si può trovare? Dico, mangiare tutti i giorni in viaggio in Slovenia? Sicuramente, come in certe nostre regioni, si può trovare la cucina tradizionale, che a secondo delle aree può risultare anche piuttosto greve, devo dire. È una cucina legata sicuramente ancora a mestieri antichi, mestieri faticosi, mestieri dei boschi, mestieri della campagna, però va affrontata perché è assolutamente apprezzabile, specie quando utilizza materie prime povere. È la riscoperta di sapori che in molti non ricordano neanche più, insomma. La media dei jeunes restaurateurs di Slovenia, che sono ancora pochi e stanno comunque crescendo di numero grazie al lavoro di Tomas, per l'esperienza che abbiamo fatto noi, che ho fatto io, è piuttosto interessante, anche se, come giustamente dici tu, Tomas è la punta emergente, sicuro con l'altra chef conosciuta internazionalmente, che è Anna Roche. Devo dire, loro sono i due famosi e stanno trascinando un paese, sì, certo, stanno un trascinando da ambasciatori, certo, del gusto, certo, certo, quel paese. Bene, grazie a Bruno Damini. Torno un secondo a Mario Ferrara, gli voglio chiedere cosa hai portato da questo viaggio nella tua cucina, qualche prodotto, qualche idea, c'è qualcosa che, diciamo, è tornato con te? Tutti i viaggi, insomma, porti qualcosa con te. Però, tornando un attimo a quello che si parlava poco fa con Bruno, io penso che, come dire, ogni nazione, ogni mestiere ha bisogno dei suoi capifila. Quello che io ho notato da questa nazione qui, che ho portato anche a casa, è la voglia comunque di crescere, di fare e di, come dire, e di andare avanti. Penso che Tomas con Gregory siano dei capifila che tutti gli altri si faranno, ecco. Bene, grazie a Mario Ferrara di Scaccomatto di Bologna, grazie. Continuiamo questo viaggio. Come ho detto prima, mi spiace moltissimo di non avere con noi questo personaggio incredibile che è un po' la punta avanzata del vino sloveno, ma conosciutissimo in Europa, che Aleš Movija, il marchio appunto dell'azienda. Bene, devo dire innanzitutto che Movija aderisce al manifesto della AAA, quello che dice agricoltori, artigiani e artisti, cioè è uno che crede nella biodinamica e, come suole lui ripetere, usa solamente lieviti indigeni. Ebbene, questo produttore, questo personaggio veramente molto, molto interessante, produce un puro Movija Rosé, è un Pinot Noir in purezza. È un metodo classico che lui stesso ha brevettato, perché la rifermentazione in bottiglia viene fatta aggiungendo mosto fresco al vino base. E poi la cosa ancora più incredibile è che non subisce la sboccatura in cantina, bensì viene fatta con solo al momento appunto del consumo in una bacinella di acqua. È molto spettacolare da vedersi e quindi è molto ma molto interessante. Ma sono altri, come dicevo, i produttori di vino come Marian Simicic, e che è vicino Movija. Anche qui sicuramente sono vini naturali, vini molto particolari, appunto la ribolla come vino principale, ma anche lo Chardonnay e il Sauvignon Blanc e il Merlot vengono prodotti. Il gastronauta. Di nuovo in viaggio in Slovenia alla ricerca di vini, di prodotti, di piatti tipici. Ebbene, Ebbene, abbiamo sentito più volte così citare e nominare carne d'orso. Carne d'orso che è un piatto tradizionale, il goulash in Slovenia, e anche perché ci sono condizioni particolari, come abbiamo appunto ascoltato, per poter uccidere degli orsi, perché ce ne sono tanti, quindi ci sono dei regolamenti e un certo numero, mi dicono un centinaio all'anno, possono essere abbattuti. Ma la carne d'orso è diciamo perfetta, lascia strascichi? Quali caratteristiche ha? Bene, ne parliamo con la dottoressa Maurizia Pallante, veterinaria presso Vet in Time a Roma. Buongiorno, dottoressa Pallante. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ci può così dire qualcosa di particolare sulla carne d'orso? Allora, la carne d'orso è una carne molto proteica, diciamo che ha un contenuto in proteine pari al 70% e un contenuto di grassi pari al 30%, quindi su questo non c'è nulla di anomalo che si discosta dagli altri tipi di carne che normalmente mangiamo, come ad esempio quella di manzo. Tuttavia, ecco, se non è controllata dal punto di vista igienico-sanitario può essere veicolo di trasmissione di alcune malattie. E tra queste innanzitutto la trichinella, quindi questa parassitosi che si trasmette prevalentemente mangiando carne cruda. Quindi diciamo che è un qualcosa che è in tutte le carni crude o solo nella carne d'orso? No, la ritroviamo ad esempio anche nella carne che comunemente mangiamo, quella di suino e quella di cavallo, però queste sono carni che vengono normalmente, quotidianamente controllate dal veterinario ispettore in sede di macellazione, mentre questo per l'orso non avviene. Quindi c'è questo tipo di problema che si può verificare appunto se non c'è un protocollo che garantisse questo tipo di controllo. Ecco, cosa porta questo problema dal punto di vista della salute? Allora, dal punto di vista della salute, diciamo, è una cosa abbastanza grave, perché l'animale non ha alcun sintomo, quindi sembra di abbattere un animale così sano. Invece poi, mangiando questo parassita, quindi ingerendolo attraverso il consumo della carne, l'uomo può infestarsi e presenta febbre, anoressia, abbattimento, edema, ma poi siccome il parassita si localizza a livello dei muscoli può arrivare fino al cuore. Ho capito. Quindi grandi compromissioni a livello cardiaco. Quindi diciamo che però dovrebbe esserci un controllo sanitario, almeno immagino che sicuramente sia così. Bene, io ringrazio Maurizia Pallante, grazie. E ora torniamo in Slovenia, abbiamo parlato di vino, continueremo a parlare di vino e ne parliamo ora con un produttore abbastanza importante che si chiama Primož Laurenčič, che è titolare della Sutor Wine Farm di Podnanos, appunto in Slovenia. Buongiorno Primož. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, anche a voi. Bene, io ho assaggiato i suoi vini, mi ha colpito in particolare un Pino Nero. Comunque ci vuole parlare un po' appunto dei vini che lei produce, quindi che coltiva la vite e poi produce? Sì, quindi da noi si coltivano le viti che esistono già per secoli, quindi Ribolla, Malvasia, Riesling Italico, dopo ci sono anche due locali autoctoni, Pinela, Zelene, e dopo ci sono, dopo la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo da quel periodo abbiamo anche qualche Pinot Nero, Merlot, Chardonnay, quelli più globali diciamo. Ecco, da voi è molto diffuso la produzione diciamo biodinamica o naturale, e diciamo è di tutti oppure solamente di una parte di produttori? No, una parte dei produttori vino anche in maniera che rispettano più della natura, dopo se mettiamo in quel scatole, sì, uno che è biodinamico, uno che è biologico, uno che fa parte di un gruppo che ha le sue regole, ma al fine rispettiamo tutti la natura, diciamo tutti da quelli che vogliamo fare un po' più con rispetto per la natura, ma diciamo che in percentuale ci siamo 10% di quelli che facciamo così, tutti gli altri fanno più o meno normale, ma anche quelli già da 10 anni fa che è inventato anche la produzione che si chiama integrale dal statale, anche là si rispetta un po' più di natura come c'era 50 anni fa diciamo. Ecco, c'è un vino nazionale, nel senso che è il più diffuso, frutto di un uvaggio in Slovenia? Ma uvaggi c'erano un po' persi diciamo in ultimi 10 anni, da noi proprio l'esempio più conosciuto è Bianco della Valle di Vipacco, proprio da quella zona dove vengo io, che era uno dei più famosi vini del periodo di Austro-Ungheria, ma dopo la Seconda Guerra Mondiale, con la viticoltura che è andata un po' troppo, diciamo, in quantità, era completamente perso, e in anni 80 è finito come un vino per un euro in supermercati, e adesso siamo un gruppo, diciamo, di viticoltori un po' più piccoli, che adesso vogliamo rifare, diciamo, quell'uvaggio. È un uvaggio che si fa da Ribolla Malvasia Riesling Italico, quindi un uvaggio con, possiamo dire, anche varietà locali, no? E il versione in collio, anche italiano, era più o meno lo stesso vino, solo che là si metteva Tokaj, Ribolla e Malvasia, no? Ma è quello che si chiama Burja? È quello che si chiama Burja, sì, il Burja è la parola slovena per bora, quella famosa nostra bora, no? Quindi è la bora, quindi l'avete chiamato con un nome sicuramente che non porta molto, molto, molto, molto fortuna. Senta, voi esportate molto come vini sloveni in Italia? Ma sì, in Italia era sempre un mercato che era sempre aperto per le novità, per un vino di qualità, quindi possiamo proprio dire per l'Italia che gli italiani vogliono assaggiare vini buoni e non guardano le etichette o da dove viene o di sinistra o di destra o non so di che cosa. E mercati più difficili in Europa sicuramente sono Austria e Francia, che non accettano i vini fuori dal loro paese, no? Bene, io la ringrazio. Ringrazio Primoš, che è titolare della Sutor Wine Farm, e che sicuramente produce degli ottimi vini, perché come ci ha raccontato, ma io ho avuto modo di assaggiarli, quindi sicuramente vi posso dire che il livello non solo suo ma di moltissimi produttori sloveni ormai è un livello molto ma molto alto. Ma di questo io ne voglio parlare con un appassionato, un esperto, uno che di mestiere appunto se ne occupa direttamente di vini, che conosce molto bene i vini sloveni. Buongiorno Giovanni Fiorin. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Giovanni, tu conosci molto bene i vini sloveni, ce ne puoi parlare un secondo, magari dando anche dei produttori, altri produttori? Noi abbiamo parlato di Movi, abbiamo parlato di Sutor, abbiamo parlato di Princi, ci sono altri produttori importanti? Sì, Sutor e Movi sono due produttori con i quali abbiamo collaborato anche noi, ottimi prodotti. Poi in realtà tutta la zona di produzione, che sono poi due regioni, la Gorisca e la Primosca, che sono a contatto con l'Italia, sono ai confini con l'Italia, ci sono quattro sottozone importanti: una è il Verdac e il Collio, l'altro è il Carso, piuttosto che la Vipavska, che è la valle del Vipacco, e poi il litorale istro-sloveno. Noi abbiamo un po' collaborato con aziende che operano in tutte queste zone, con, come dicevi tu, lo stesso Sutor, un gran produttore secondo me che si trova nel Carso è Marco Fon, che insieme a Rangel un po' sono secondo me i due produttori che guidano un po' quella zona. Sono vini abbastanza complessi, perché comunque si trovano in un terreno molto difficile, tutto calcareo, e quindi hanno a che fare con una situazione pedoclimatica che impone delle scelte molto severe in vigna. Secondo me anche in cantina riescono a dare grossi risultati. Qui la viticoltura, per quel che mi riguarda, per quello che ho un po' capito io, ha un impatto molto naturale, molto naturale, dicevo, molto poco interventista. Devo dire che rispetto a molte altre zone del mondo nel quale si pratica questo tipo di agricoltura, ho trovato che la gestione di parecchi passaggi importanti, vedi le lunghe macerazioni dei bianchi, vedi l'utilizzo di lieviti autoctoni, è secondo me ad uno stato un po' più avanzato, nel senso che la mano è decisamente molto buona secondo me. E Giovanni, io ho avuto questa impressione assaggiando anch'io questi vini, che sono molto avanti sui bianchi, un po' meno sui rossi. Ma diciamo che c'è una zona secondo me che sui rossi ha una grandissima tradizione, ahimè ricado sul Carso, perché c'è quel vitigno che si chiama Terrano, che ha una una storia e che ha anche un'espressione in bicchiere che è unica. Per il resto concordo con te, faccio una piccola eccezione per quel che riguarda un altro vitigno che è tipico, che poi appartiene un po' allo stesso ceppo, che è il Re Fosco. Per il resto si coltivano quei vitigni internazionali, vedi Merlot, vedi Cabernet Sauvignon piuttosto che Franc, e anche qualcosa di Pinot Nero che magari ha dato qualche soddisfazione in più in altri posti. Sì, devo dire che ho assaggiato un Terrano metodo classico veramente, veramente impressionante, solo che il personaggio che lo produce è molto particolare, il quale lo vende solo a chi così gli è simpatico e non lo esporta, quindi devo dire che così è uno di quei vini in cui uno capita, li assaggia e poi magari se li deve anche dimenticare, perché purtroppo difficilmente le può ribere una seconda volta. Bene, un'ultima cosa ti volevo chiedere: importanti quindi i grandissimi bianchi e un po' meno i rossi, ma secondo te il vino di punta è la ribolla? Secondo me in tutte queste zone la ribolla è uno dei vitigni sui quali questi produttori devono puntare. Non è l'unico, secondo me, specialmente nel litorale istro-sloveno, la malvasia del tipo malvasia istriana ha... Io ho assaggiato delle cose molto importanti. Poi ci sono due particolarità che riguardano la Valle del Vipacco e due vitigni sulle quali davvero debbono questi produttori puntare il grosso dei loro sforzi, che sono lo Zelen e la Pinela. Sono due bacca bianca che un po' anche lì la situazione pedoclimatica, ci sono dei grossi sbalzi di temperatura tra giorno e notte, dà una particolare aromaticità, e allontanandoci dal mare, avvicinandoci alla zona carsica, riescono anche a cogliere un po' della mineralità appunto della zona del Carso, e sono molto interessanti. Bene, devo ricordare che lo Zelen è un vitigno autoctono di cui si contano nel mondo solamente 60 ettari. Bene, qui chiudiamo, grazie anche a Giovanni Fiorin, chiudiamo questo viaggio in Slovenia, un viaggio molto particolare, magari un viaggio molto estivo, a pochi chilometri dal confine ovviamente del Friuli, e quindi chi lo volesse fare manca veramente poco, basta fare 15 chilometri e già si possono assaggiare questi vini e si possono così visitare questi ristoranti. Io vi auguro un buon weekend, vi do appuntamento domani per il Riposo del Guerriero e poi alla prossima settimana, come sempre, anche 6 agosto. Buon weekend al vostro Davide Paolini.